per cominciare la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua. Musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. E un'altra forma dell'acqua in diretta sui 103.1. Un'importante ricorrenza, ovviamente. Vigilia di weekend, l'importante ricorrenza non è quella con le uova, con la cioccolata, con i coniglietti, ma è una ricorrenza che vede la luce protagonista, cara Elisa. Buongiorno! Buongiorno, che bello! Beh, innanzitutto ben sintonizzati sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Questo è lo Special Twice. E che bello, sono tornata dopo una settimana di questo limbo di che virus devo morire. Sono finalmente, ti ho lasciato da solo, ma ovviamente sì. So che questo per te è una passeggiata. Io insomma sono riuscita a tornare ai microfoni di Radio Città Fujiko così per infettarvi, volevo dire per darvi tanta buona musica. E in più sono guarita perché, voglio dire, vigilia di weekend, è il weekend della luce, giusto? È il weekend della luce, ma infatti oltre che la ricorrenza pasquale dove mangeremo e dove faremo qualche sgarro alla dieta, perché oltre alla dieta, avendo condotto da solo, hai visto come mi sono... Ma infatti c'è qui 4 metri in 2, però poi l'altro quarto me lo lascio da sola adesso. Ma abbiamo qui chi può compensare questa mancanza e soprattutto porta la luce, perché ha un colore caldo. Ha un colore vitale, ma infatti io sono guarita solo perché sapevo che lei oggi sarebbe stata qui ospite. Io sono elettrizzata, ho una carica assurda e poi diciamolo, Willy, io e te 4 metri in 2 quando abbiamo già 2-3 ospiti. Di qua non si respira più. E invece adesso? Invece oggi abbiamo un ottimo ospite. Lo mettiamo ovunque. Una presenza di un certo tipo, fa per otto, ha un'energia, una presenza scenica, artistica, racchiusa in un piccolo spazio vitale, quindi possiamo allungare. Vuol fare l'astronauta, ti rendi conto? Ma è impossibile. No, cioè, vabbè, allora diamole la parola perché questa ancora non la sapevo. Poliedrica, polivalente, artista, musicista, compositrice, intrattenitrice, è con noi a proposito di luce e colori, Roberta Giallo. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, ciao a tutti. Tra l'altro parlavate di luce, pensate che l'EP che al momento fuori si intitola proprio di luce propria. Vedi? Quindi cado a fagiolo, come si dice. È il fagiolo del weekend della luce. Esatto. Un fagiolino, roba cenna, roba fenna, si dice a Bologna, roba piccola, roba raffinata. Nella presentazione ho dimenticato qualcosa. Ma no, diciamo che anzi hai fatto una lunga lista di appellativi. No, aggiungere mi piace, anche se si aggiunge qualcosa uno può sempre diventarlo. Ma sai cosa possiamo aggiungere, visto che sulla tua pagina Wikipedia cioè si contano collaborazioni, che c'è una lista infinita e anche insomma tante interviste, Radio 2, beh adesso Radio 2 possiamo metterla da parte, mettere un bel Radio Città Fujiko, Special Twice, finalmente, orgogliosi. Noi ci stimiamo tantissimo. Cioè, gli ospiti dicono, ma questi poverini. No, è che noi non siamo abituati così bene. Hai visto la nostra paginetta Facebook con gli ospiti? È decollata, cioè finalmente finché eravamo solo noi di una serie, questi prima o poi insomma. Oh, con quanto sono grandi, con quanto sono asini. Esatto. Invece adesso finalmente. E pensare che quando ci sono tanti ospiti l'ossigeno è di meno, e più noi essendo in alto abbiamo difficoltà, quindi può darsi che ci sia comunque un nesso che collega tutto. Può essere. Chi lo sa. Adesso come facciamo? Da dove partiamo? Io è difficile. Da questo. Allora, dalla dinamicità. Perché William adesso che è stato alla dieta va a correre, però in realtà si sa, io e te Willy siamo due anime un po' pigre, un pochino, diciamolo, che però ci sforziamo così tanto ad essere dinamiche che poi lo diventiamo veramente, è stupefacente questa cosa. Però io so che tu, Roberta, hai iniziato con dei video, degli autoritratti dinamici per farti anche conoscere un po' di più sul web, ce ne vuoi parlare? Certo, è stato un esperimento creativo. Gli autoritratti dinamici che cosa sono? Sono una sorta di canzoni estemporanee inventate di fronte alla webcam. Le chiamo autoritratti dinamici perché mi interessava anche dare un aspetto grafico a questa improvvisazione. E di fatto io guardandomi era come se mi autoritraessi perché... come dire, guardandomi mi nascevano delle idee legate proprio al fatto di guardarsi. Quindi mentre un ritratto, perché io poi dipingo, forse non so William non hai elencato. Che vergogna, che vergogna, lo sapevo. L'ha elencato un'altra delle mie attitudini, ovvero la pittura, il disegno. Ecco. Sto segnando. E quindi no, però cos'è? Il dipinto e la pittura sono delle cose tendenzialmente ferme, eterne proprio nella loro fissità. Invece la musica è movimento, cioè la musica non la puoi fermare, la puoi ascoltare nel suo movimento. E quindi ho pensato di chiamare autoritratti dinamici queste canzoni, perché di fatto sono dei video in cui l'opera, ecco, adesso chiamandola proprio opera, si muove. Certo. E quindi è questo, perché sono veramente canzoni nate da un autoriflesso. E tra l'altro sei riuscita a dare un qualcosa di innovativo a un ambiente che è quello del web, di YouTube, che insomma è difficile creare qualcosa di diverso. Di solito uno si ispira a qualcosa di già visto, la classica persona che si mette davanti alla webcam, okay, si attacca con la chitarra e si espone al web. Io non sapevo di questa dinamicità, scusa se ti interrompo, perché sono rimasto così basito, perché tra l'altro il mio motivo di ammirazione dopo averti conosciuto come conduttrice coxica è stato immediatamente questo, quindi tra un collegamento e l'altro mi capita il video di questo folletto giallo e dico: ma cosa sta facendo? E ha cominciato a canticchiare questa meraviglia che grazie, dalle stelle alle stalle, una volta eri un grande, adesso sei in mutande, che detta così da me dice: ma è impazzito, cosa sta dicendo, è ancora più ridicolo di quello che è. Cantata da lei con questi gorgheggi, sì, con questi accordi, dopo mi è rimasta in testa, la cantavo con mia moglie che girava. È magica, Roberta. Sì. Ma diciamo, guarda, come dicevi, stavi dicendo, no, non hai fatto la solita cosa, non ti sei... Ma secondo me io non ho paura del giudizio, ecco, se ho una fortuna, poi ho anche tante sfighe, però insomma se ho una fortuna... Segneremo anche quello. Certo. Non può giocare a basket. Non avere paura del giudizio, quindi se mi viene in mente un'idea, non è che io mi pongo il problema, ma se propongo questa cosa mi prendono per matta. Non mi autocensuro, perché intanto comunque i contenuti che offro sicuramente non inneggiano alla violenza o comunque a delle cose che per partito preso, anzi questi giorni su Facebook al solito come accade qualcosa di spiacevole, ognuno diventa professore, tutti diventano giudici. No, però diciamo, dal punto di vista artistico, quando appunto non c'è niente di violento, per me tutto è possibile. Quindi non mi faccio, diciamo, scoraggiare dal fatto di proporre il nuovo. Per me è un tester. Testo il pubblico, testo me stessa, e poi a volte le cose possono avere anche successo, perché la novità, anche nell'ambito discografico, a volte è vista con sospetto, sì, perché la discografia è piuttosto propensa a proporre ciò che già va, ciò che si è già visto, certo, che vende, ciò che è già appurato. Però a me quel discorso non interessa. È più rassicurante, perché giustamente chi investe dice: io voglio andare sul sicuro. Esatto, però in realtà non sa che è dove. Per chi crea una castrazione, cioè poi magari ti può venire veramente anche l'idea assolutamente pop e commerciale, ma non con quell'intenzione, esatto, dall'inizio di farla apposta. Perché anche perché nel tuo caso si vede che sei spontanea e sincera. Sì, questo secondo me è sicuramente un tuo valore. Beh, mi aiuta questa cosa, anche perché, ripeto, se uno fa le cose con sincerità, la maschera non crolla mai. Esatto. O comunque si piace o non si piace. Quando invece, secondo me, anche poi vorrei anche distinguere, se avremo tempo, tra che cosa significa costruirsi come personaggio e fingersi, certo, come personaggio, perché la costruzione, secondo me, non è un difetto, è il tuo bagaglio. Perché a volte no, è capitato che, insomma, ma anche in passato, che ne so, alcune persone, diciamo così, critici o che pensavano di esserlo, no, dicessero: ma come personaggio sei troppo costruito. Ma costruito in che senso? Nel senso, se uno è costruito perché quando sta su un palco ha dei movimenti, ha delle cose che possono essere anche studiate, lo studio non è necessariamente prendere in giro o falsità. Una falsità, è cioè, proprio anzi, preparazione, un processo artistico a volte, certo, cioè fa parte dell'arte. Per dire, il teatro è costruzione. È proprio, certo. Poi io sono anche una grande improvvisatrice, nel senso che mi piace anche molto proprio andare così a braccio. Infatti gli autoritratti dinamici dimostrano questo mio... Poi se è vero che appunto ti lasci anche influenzare dal momento, certo, quindi da quello che vedi, certo, è bello anche quello. Però esatto, esiste un momento di improvvisazione, poi esistono anche dei progetti invece dove ogni cosa è studiata. È studiata perché è quello scopo. Sì, non nel senso appunto brutto del termine, è fatta a tavolino, quello è l'intenzione commerciale. È un conto studiato, è un conto a finta, perché io voglio, esatto, raggiungere quell'emozione, esatto, da chi mi sta guardando. È come dire, se non so, Tim Burton fa cose vere o finte, cioè allora richiamo allora anche Aristotele: l'arte è quella cosa che è un po' vera e un po' finta, però la finzione non deve avere quell'accezione negativa, esatto, della falsità. è finto perché noi costruiamo un mondo che non esiste in realtà, esatto. Oppure attinge da ciò che esiste ma diventa altro. Ho dimenticato un'altra cosa oltre che pittrice. È filosofa la ragazza. E speaker radiofonica. Ah, beh. Potrebbe, insomma, diciamo ma che... Infatti lei, l'abbiamo detto fuori onda, che quando ci sono io abbiamo chiamato gli ospiti per fare a loro la puntata. Certo, ma si fa così, Questo è talento, che è non talento. Abbiamo costruito ma è naturale, esatto. La nostra pigrizia, assolutamente. Iniziamo con un po' di musica perché Vai. Ho già capito che oggi le chiacchiere... Sono lunghe. In abbondanza, ne abbiamo da... Ma e tra l'altro, dico solo un'ultima cosa, appunto in questi piccoli sketch, possiamo chiamarli così, è veramente naturale, cioè una volta in pigiama appena alzate, quell'altro che ho visto io mentre lava i piatti, la musica bellissima. Sì, tra sì, ma è fantastico, ma adesso vi lasciamo riposare. Da questa fiumana di parole e poi ripartiamo. E di talento, esatto. Di talento. Fred Wesley, The House Buddy. I can't go to the movies, I ain't got the fare. I like to make the disco, but I haven't got a thing to wear. I'm gonna get my stereo and call up everyone. Come on over to my house and let's have some fun. Gonna have a house party. Gonna have a house party. Gonna have a house party. Gonna have a house party. Arancione più giallo cosa fa Elisa? Perché arancione giallo, Fujiko. Arancione giallo. Come era la città Fujiko, giallo come Roberta. Roberta è stata birichina perché mi ha lasciato una torta qui a fianco a me. Forse lei non glielo sa detto. Che è in pericolo. Io gliel'avevo detto, io sono a dieta e con te ti va fatta bene, ma ricordati che appena arriva Elisa. Non è proprio a dieta e siccome l'appetito è proporzionale alla nostra statura, come tu ben sai, purtroppo si nota. La pausa pranzo è andata, mia cara. Esatto. Ho paura. Beh, l'orario ancora ci dà tutta la giornata davanti per smaltire e sicuramente andrò a far jogging. Adesso ascoltiamo anche un po' di musica di Roberta, così. Sicuramente sono sicura che comunque alla fine dell'ora vi entrerà in testa. Intanto vi diciamo anche che sulla nostra pagina Facebook dello Special Twice troverete ovviamente anche la pagina ufficiale di Roberta Giallo, così potete ascoltare, andare anche a a curiosare, a vedere le immagini. Lo consiglio assolutamente, lo consiglio, scoperta. Sì, bellissimo. E poi non sapete anche perché qui più andiamo avanti più scopriamo delle cose, cioè io sono impazzito su uno sketch che mi ha girato Fedra, che salutiamo, fra l'altro è stato in diretta anche con noi. Ma guarda che talento, e lei faceva l'hip hopper. Beh, sì, in realtà io costruisco degli alter ego. Siccome io sono finita, no? Poi avete visto, sono finita nel senso essere umano finito. Non sono una divinità, sono un essere umano finito, no? No, ho avuto qualche dubbio. No, sono anche piccola, adesso io sono qui in mezzo a due giganti, sono molto piccola fisicamente. Quindi veramente anche le persone dicono: ma quante cose fai? Per non darmi un termine, mi sono inventata altre me. Quindi capito, perché qualcuno magari potrebbe pensare: ma allora poi non è credibile, cioè lei è comunque una cantautrice che fa cose di un certo livello, vuoi che... Allora, però a me piace scherzare, piace anche prendere le distanze in modo leggero, ma poi secondo me sia la comicità che la serietà vanno a braccetto, insomma, anche tutte queste distinzioni, che barba. E anzi, quindi io ho creato Roby Yellow, perché effettivamente io comunque ho un grande amore per il rap e l'hip hop, ma e poi mi piace anche prendere in giro le cose. E quindi non so se volete ve la chiamo un attimo, vi saluta. Dai, Roby Yellow. Apri la porta e chiamala. Ma sono un po' emozionato, non è che... Già due ospiti in una giornata. Sì, perché si sdoppia anche. E Roby Yellow come si presenta? Intanto gli diamo il benvenuto qua con noi. Io 103.1. La fratella. One, Radio Città Fujiko, welcome Roby Yellow. Ciao fratello, ciao da Roby Yellow, stacci col cervello, wow. Yeah, vai sis, hey sis, ci siamo in pieno, smoking ciba ciba. Un po' di zeppola in questa rapper, che aiuta sempre quando uno rappa, la zeppola aiuta, sì. Purtroppo non ha con sé la sua frangia verde, perché Roby Yellow ha questo carattere distintivo, una frangetta verde. Certo, e poi anche il fatto di questa zeppola penso che sia attinente a molti rapper italiani. Perché a volte più c'è il difetto, più c'è poi il successo. Cioè nel mondo rap il difetto diventa quasi un marchio di fabbrica, distintivo. Ma a livello anche vocale, cioè se ci fate caso, sì, anche chi magari ha la R... Io ho la R moscia. I migliori anche giornalisti televisivi. Però che la R moscia rara, la voce. Vero? Nei rapper la R moscia ancora non c'è, quindi potresti proprio farlo. Ramarro verde. Abbiamo trovato un'altra carriera. Ramarro verde, mi posso. Perché sarebbe effettivamente innovativo. La rimoscia c'è stata con Ino Bono Core. E poi... ho un mio amico Niscola Sbonazzi, cantatore calare, non proprio come rotante, perché poi la R c'è rotante, non so, ci sono varie. Comunque non ha la R praticamente, ma un rapper con la rimoscia non c'è, secondo me. Potrei pensarci. Abbiamo un mercato fiorente ancora, dai, da sfondare. Dai, magari verrà Willy DJ con la R moscia. Sai quanti doppi sensi mi trovano dopo, hai voglia, nel mondo del rap. Poi ti puoi immaginare, andiamo a aprire delle porte infinite. Quindi abbiamo conosciuto Roby Yellow, poi anche un aspetto così anche da manga, un fumetto. Sì, è vero, un po' così morettina, potresti inventarti un'altra realtà, sì. Un altro terreno. Sì, infatti così. Effettivamente guarda, ti devo dire, vedi, tu mi anticipi, perché io ho anche un altro alter ego. Vedi? Che è quello con cui dipingo, che è l'aspetto mio più manga, e si chiama Cliscia. Poi Fedra mi ha conosciuto all'arte fiera proprio nei panni di Cliscia, perché lì ero proprio un anime. Cioè mi ero vestita da questo mio personaggio, che è colei con cui filmo invece le mie opere grafiche. Ah, okay, perché allora il nome vista. Cliscia mi ispira a un universo che Roberta Giallo non ispirerebbe. E quindi Cliscia è la mia parte manga ed esiste già. E che vestito ha? Esiste anche su Facebook, ha i capelli fucsia, o caschetto oppure lunghi alla Sailor Moon. E poi anche Cliscia ha un suo linguaggio. Adesso stasera non riesco a evocarla, Cliscia, perché è un demone un po'. Dobbiamo fare una solita spiritica. Però su Facebook, insomma, chi vuole. Ma allora facciamo poi qualche post. Ho con tra l'altro i illustrato tuoi anche dei libri di un americano, Tom Connor, gli ho fatto l'illustrazione per un suo libro. Insomma, è un aspetto che tengo quello un po' più. Perché ovviamente, ragazzi, portare avanti tutto ore, è difficile. Le tue giornate sono sempre di 24 ore come ma le io, nostre. Infatti, secondo me, quando mia madre mi vede, dice: cioè, lei non è normale, perché passo. Perché poi seguo anche tutti i social network, anche lì io posto, riposto, seguo tra tutti gli account, le varie personalità, la musica, la pittura, poi adesso voglio fare tutti i video, i video ispirati a Disney, coinvolgendo altri cantautori, amici o cantanti o ballerini eccetera, per creare una specie di sitcom canzone. Dai. Quindi sto costruendo tutti i costumi di carta, no. Cioè me ne invento sempre qualcuna, capito? Perché secondo me odio la noia. Non credo che tu abbia il tempo di annoiarti. Aspetta, prima dello stacco pubblicitario voglio sentire una canzone di Roberta Giallo in questo caso. Almeno così allora, vi facciamo capire così, un po' ecco, il torniamo, sapore. Abbiamo evocato, uno addirittura è arrivato qua nei nostri studi sotto forma di hip hopper. Torniamo invece a una soluzione più vicina a casa nostra. Vuoi presentare tu il brano, così che ci sta avvicinando al primo stacco pubblicitario? Partirei, se possibile, da 5 schiaffi e una carezza. Perché è diciamo una canzone che parla della condizione del cantautore e della mia condizione, che poi fortunatamente col tempo sta anche migliorando. E quindi diciamo che il percorso di un artista secondo me è soggetto a più schiaffi che carezze, perché bastonate, ragazzi. Però ogni tanto arriva anche qualche carezza. Bravo. E ce lo ascoltiamo. Che colpa ne ho se non produco denaro, ma mi piace guardare lontano. Che colpa ne ho se il mio non è certo un lavoro che adesso mi rende dell'oro. La colpa che ho non l'ho se mi nutro di spirito, se amo vivere in bilico tra la bellezza e l'amarezza. Prendo 5 schiaffi e una carezza. Colpa ne ho se non riesco a mentire per convincere che vado bene per lavorare. Che colpa ne ho se mi piace spendere il tempo studiando la noia e il tormento e magari scriverci su, ma nessuno ormai paga più per noi tristi di spirito. È per questo che vivo in bilico e l'amarezza. Prendo 5 schiaffi e una carezza. No, non è facile convincere gli altri che vivo bene così, solo così. No, non è facile convincere gli altri, ma se non vivessi così io morirei rinunciando ad essere me, rinunciando ad essere me, non lo farei neanche per te. Io amo nutrirmi di spirito, se mi piace vivere in bilico tra la bellezza e l'amarezza. Prendo 5 schiaffi e una carezza, sì, tra la bellezza e l'amarezza. Roberta Giallo, 5 schiaffi e una carezza. Vedi Elisa che quando io mi innamoro artisticamente difficilmente sbaglio. Quello guarda, il mio entusiasmo che mi ha fatto guarire ha funzionato. Grazie. Roberta. E questo è uno dei primi lavori, mi dicevi, in ordine cronologico hai un po' fornito questa playlist che andiamo a scoprire. Diciamo che è il primo lavoro che ha visto in qualche modo la luce anche proprio dal punto di vista promozionale, cioè nel senso che ho cominciato a scrivere canzoni quando ero veramente piccola, che ero una bambina a 11 anni. Brava, proprio 11. E quindi diciamo quelle canzoni lì non le ho ancora rese pubbliche, ma anche perché magari... Beh, una cosa a te, potresti fare un libro con delle illustrazioni. Brava, mi dai delle idee anche tu, grazie Lisa. E no, quindi 5 schiaffi e una carezza diciamo è stata la canzone con cui sono riuscita fuori dopo un po' di silenzio, perché io avevo avuto un momento, diciamo, di, come si può chiamare, un momento di splendore, no? Quando uno, insomma, nel 2006, anno in cui ho aperto il concerto di Sting a Napoli, queste sono quelle fortune, appunto, le famose vincite alla lotteria di cui parlavo prima, e lì, quindi avevo, insomma, era stato un anno molto fortunato, perché poi per vari motivi, insomma, gli anni a seguire ho lavorato tanto ma dietro le quinte non si riusciva a uscire con l'album, non si riusciva, quindi a distanza di tanto tempo finalmente 2013 mi vede come finalista Musicultura con questo pezzo che mi ha riaperto le porte alla gente. E quindi è il pezzo che mi ha permesso di ricostruire, di ricominciare a costruire proprio il mio rapporto col pubblico. E da lì poi sono andata avanti e con tutte le tue collaborazioni di cui parleremo nella prossima mezz'ora, perché gli argomenti non ci mancano allo Special Twice, e con un ospite come Roberta Giallo ovviamente sarà un crescendo rossiniano come la sua voce. Per il resto vi lascio con Bobby Timmons, un paio di note, That There. Sicuramente questo artista ti piace, Roberta. Lo ascolti? Così dopo torniamo dopo la pubblicità. State con noi. A dopo. Run, Clara Hill ci riaccompagna in diretta a Radio Città Fujiko, i vostri 103.1, vigilia di weekend, weekend che accorcia un'ora nel riposare, nello stare a letto, ma ce la regala di luce. Ce la regala di luce e di energia e di vitalità, come ce la regala oggi Roberta Giallo che è qui con noi. Cioè la mia ammirazione sta aumentando ogni minuto, già sì, io veramente avevo avuto questa, questa luce gialla a prima vista che si conferma. Tra l'altro, Abbiamo chiacchierato un po' nel fuori onda, ci dicevi appunto che sei di Senigallia, però in realtà hai spaziato un po' nella tua vita, un po' anche in Toscana, hai vissuto tanti anni a Bologna, hai parenti in Europa. 5 insomma. O 6 personaggi hanno 5 o 6 luoghi esatto, di origine. Parliamo anche dei tuoi personaggi che si sdoppiano in tutte le loro nazionalità. Io e ne ho trovato un altro comunque, intanto che penso, ne ho trovato un altro bellissimo. Ma da farle video. Fare o che lei? No, magari lo, no, dopo lo facciamo ovviamente interpretare, ma purtroppo non rende radiofonicamente. Io non so cosa sia successo o dove si trovava, o in un centro commerciale o in un bar, ha iniziato ad avvicinarsi a una telecamera a passo di danza, ma in maniera assolutamente anni 70, tipo Soul Train. No, allora dobbiamo pubblicarlo sulla pagina. No, dai, adesso lo andiamo a prenderlo, pubblichiamo sullo Special Twice. Sembrava Soul Train insieme a una tua amica, mi sembra che anche lei ti accompagnava in questo percorso. Ah, ho capito quando, questo è di qualche giorno fa. Giusto? Ma io ti seguo, certo. Questo è successo per caso, eravamo al Cosmo Prof. Ah, ok. Sì, siamo state l'accompagnamento musicale di uno stand di trucchi. Io e Simonetta Spiri, che è un'interprete insomma molto brava, ma io niente, vedendo questo tappeto rosso c'era appunto una musichetta giusta che mi ha ispirato, ho detto, come direbbero a Bologna, vi animo qua, dai ma muova. Facciamo, e sono partita con questo stacchettino e ho pensato, vorrei fare, vedi, uno spettacolo che inizia così. Beh, che entriamo in scena così. È un successo, te lo dico già adesso. Per me sì. Io, cioè, sembrava Soul Train quando entrano le coppie, bellissimo. Allora ci devi assolutamente già dare la conferma di farlo insieme. Io prendo le parrucche, belle ricciolone sì. di quelle giganti e partiamo. No, ma se lo facciamo con tu in mezzo a noi. Esatto. No. Spacca, come si dice, no? Sì, è un successo assicurato. Successo assicurato. Cioè, bene, Special Twice diventa improvvisamente una fucina di talento, vedi? Di talenti. Talenti che tra l'altro tu, Roberta, hai cercato e ascoltato, come dicevi anche nella prima mezz'ora, fino a volere assiduamente anche un minuto di silenzio, perché ormai avevi le orecchie praticamente intrise di musicalità provenienti da, non lo so, diccelo tu da dove. Brava, mi dai modo di dire una cosa molto importante, perché quest'anno qui a Bologna, che comunque è la culla del cantautorato italiano per certi versi, mancava secondo me un evento che desse spazio a dei cantautori emergenti. Quindi in collaborazione con il Bravo Caffè, insomma, che mi ha dato questo spazio, ho pensato di creare una rassegna dove i protagonisti fossero i cantautori. Quindi ho, come dire, fatto questo annuncio su Facebook mesi fa e ho ricevuto centinaia di richieste. Non pensavo. Non pensavi. Ma siamo anche tante, allora. Vedi? E 5 schiaffi, una carezza, che questa carezza ma però, qui insomma. E quindi ho ricevuto talmente tante richieste che non avevo più tempo per vivere. Nel senso, perché io poi ovviamente sono cantautrice anch'io, giro, faccio date, mi sposto, seguo vari progetti, e però mi sono voluta lanciare anche in questo ruolo di direttore artistico e di presentatrice. Tra l'altro mi sta divertendo, insomma, sto scoprendo veramente tanti artisti interessanti e approfitto anche per dire quando sarà il prossimo appuntamento. Certo. Sì, fai bene, anche perché non stavi facendo nulla, quindi hai fatto bene aggiungere anche il ruolo di direttore artistico, secondo me. Poi secondo me userà anche i piedi, evidentemente. Probabilmente. Poi c'è da mettere a posto i CD in casa mia, se vuoi. Ah beh, vabbè, potrei effettivamente in un momento di noia. Poi ovviamente devi trovare anche uno spazio per fare il nostro stacchetto con le parrucche, certo, da Soul Train, perché e lo stacchetto per i 40 anni della radio, ecco, e che dopo farai, ragazzi bolognesi e dei dintorni, insomma tutti gli ascoltatori di Radio Fujiko, sappiate che il 29 marzo, quindi siamo vicini, ci sarà un'altra serata Martedì in Giallo, ovvero rassegna dedicata ai cantautori. Gli ospiti della prossima puntata, chiamiamola quasi puntata, saranno Tizio Bononcini, Where Vala Maghe da Modena e poi i Radio Londra da Rimini Riccione, una band che non ricordo. E poi ovviamente ci sarò io che presento, canterò anch'io qualcosina. Ah, okay. E questa cosa sappiate che andrà avanti fino a giugno. È una minaccia, no? Sappiate comunque che non vi liberate facilmente della me. Giallo. No, esatto. Se sfuggono al 29, ragazzi, non potete scusarvi perché c'è un'altra data. Martedì 5 aprile, il 12 aprile. Poi si va avanti ancora. Sono tutti martedì? Tutti martedì, non tutti, il primo e il terzo con qualche extra. Ad esempio il 12 aprile sarebbe un extra, quindi c'è il 5 aprile, il 12 aprile e poi se non sbaglio quello ancora più avanti. Insomma, se seguite le mie pagine Facebook, lì io scrivo tutto. Ricordiamo che è ingresso libero. Sì, brava. E brava Elisa, ingresso libero, quindi ragazzi, veramente è tutto offerto. Quindi dalle 21.30 non potete mancare. Un turno di riposo ha fatto bene Elisa, è particolarmente sveglia questa sera. Grazie, grazie. Stasera veramente non perde un colpo. Non me ne manca una. Mamma mia. Mi ricorda quello che io non dico, perché se lo ricorda da prima, quindi grande. Cioè. Siamo una squadra perfetta. Vi compensate. Ascoltiamo un po' di musica by giallo, by yellow, animale. Dici un po' la storia. L'anima è un animale. Tutto è nato da qui. Allora facciamo una cosa, ascoltiamola, poi ce la spieghi. L'anima è un animale e se ne sta al di là del bene e del male, la ritorno ad ascoltare perché lei sa più della mia ragione. Sono gazzella, sono leone, sono lucertola e mi scaldo al sole, sono balena, io sono un cane, sono un usignolo. del resto, grande passione che ha lo Special Twice anche per gli animali, e quindi ogni sfaccettatura, ogni parte della personalità umana è chiaramente bestiale, ma in questo senso in maniera positiva, è una caratteristica positiva, perché l'elenco che tu hai fatto, che ho ascoltato, sembrava così che mi perdevo in chiacchiere, mentre invece ho ascoltato attentamente il testo. Ricordo che fra l'altro tu sei anche autrice e scrittrice di tutto ciò. Sì, infatti sono una cantautrice, no? Che mi canto quello che scrivo. Te la suona e se la canta. Sì, sì. No, questa è una canzone, insomma, ma lo dice un po' la frase stessa: l'anima è un animale, no? Poi c'è chi ci ha visto un'idea di reincarnazione, per dire. A me piace credere, per dire, che esista la reincarnazione. Non so se ci credo, però tra tante idee di quello che viene dopo, mi piacerebbe l'idea di reincarnarmi, possibilmente in un essere umano e possibilmente anche donna, però, però non la vedo male la reincarnazione. Insetti o... Vuole anche l'immortalità, ti rendi conto? Beh, è giusto, l'ambizione fa parte. No, perché a pensarci bene, reincarnarsi non sarebbe brutto. Comunque tu magari non sai più chi sei stato, però hai una seconda, è una seconda possibilità. Puoi avere dei déjà vu, ma io effettivamente poi non so se queste appartengono ai luoghi della fantasia, cioè quando si ha a che fare con la spiritualità tutto è vero e niente è vero, no? Ognuno ha un suo modo di sentire le cose nella vita. Diciamo che nel mio caso io mi sono ritrovata a sognare, proprio ad avere in sogno degli animali in alcuni momenti cruciali della mia vita. Ho sognato serpenti piuttosto che topini, piuttosto che mantidi, e secondo me a livello simbolico quegli animali avevano un significato, ma un significato proprio antropologicamente chissà, no? E quindi quella canzone nasce da questo in qualche modo, cioè ho pensato che effettivamente questi animali potessero essere parte di me o delle mie anime passate, oppure della mia evoluzione proprio. Beh, un po' anche l'inconscio che cerca di comunicare con noi, sì, tramite, certo, dei simboli che noi rappresentiamo e che abbiamo significato. Siccome noi non sappiamo ad oggi ancora che cos'è l'anima, no? Anche se pure tanti, insomma, molti medici, so che adesso ricercatori stanno cercando di dimostrare che esiste l'anima. Quindi l'anima che cos'è? Potrebbe essere la parte più spirituale di noi, potrebbe essere quest'alito di vita, potrebbe essere l'inconscio, potrebbe essere energia. Tutto insieme forse, esatto, chi lo sa. Chissà, e io ho voluto vedere appunto negli animali, ma non tanto l'animale, poi il cane che tu accarezzi o che hai a casa, ma anche quello, perché no, proprio a livello simbolico, la forza simbolica degli animali. Cioè sentirsi tigre, sentirsi leone, sentirsi un uccello, le caratteristiche degli animali per noi possono essere a volte un incentivo ad affrontare la vita con quella caratteristica che ti serve, la velocità, l'astuzia. E quindi l'anima è un animale, è l'invito ad ascoltare la parte animale che ti serve in quel momento della vita per aggirare l'ostacolo. La parte, sfaccettatura dell'anima. La parte più primaria, ma non primitiva. Primordiale. Ma non primitiva, perché chiaramente noi poi mettiamo l'aspetto della ragione, che non deve essere più preciso o, diciamo così, più banale, o andare a schiacciare quella che è una realtà istintiva, però deve essere ben calibrata anche con la parte più animale. Detto questo, con Roberta Giallo allo Special Twice troviamo un altro animale, ma fra pochissimo, però, perché prima continuiamo ancora con la nostra chiacchierata. Quest'ultima parte di diretta la facciamo magari ascoltando la musica. Willy, cosa facciamo? Possiamo gonfiarci un po' il petto? Gonfiamo il petto. Beh, basta. Visto che parliamo di animali, vorrei fare un po' il tacchinello. Posso fare il tacchinello che si no, in realtà volevo farlo gonfiare a Roberta e dire, insomma, un po' nella sua biografia, insomma, ha avuto molte esperienze artistiche. Stavi dicendo che appunto hai avuto l'opportunità di aprire il concerto di Sting, ma hai suonato anche con Carmen Consoli, Edoardo Bennato, Alex Britti, e a seguire hai collaborato anche con Lucio Dalla. So che hai avuto basta, modo, che poi ci chiede i soldi che per essere... basta. No, per esempio con Lucio Dalla sono curiosa, ho già mandato so un taxi, che hai avuto modo sì, non uscirei mai più da Radio Città Fugico, sappilo. E dicevamo che so che hai avuto modo di approfondire la conoscenza di Dalla al di là anche della parte, insomma, lavorativa, artistica, quindi hai avuto modo di conoscere un pochino sì, di ho più. Avuto la fortuna, l'onore, insomma il privilegio, e chi più ne ha più ne metta, di frequentarlo sia da un punto di vista artistico che umano. E artisticamente ho collaborato con lui anche a una colonna sonora di un film, poi ho messo qualche coro nel suo ultimo disco e ho fatto la comparsa in un video, e poi lui stava invece coproducendo insieme a Mauro Malavasi, insomma noto arrangiatore artista, insomma musicista, insieme mi stavano producendo uno spettacolo teatrale che aveva preso vita da un romanzo che avevo scritto. A lui piacque il CD legato a questo romanzo. Ah, quindi sei anche scrittrice di romanzi? Guarda, me l'ero persa. Nel senso, non basta un romanzo per fare uno scrittore. Però umilmente sì, cioè perché no, l'ho scritto un libro, quindi chi scrive un libro è scrittore. Poi ragazzi, spero presso di metterlo fuori, nel senso perché che deve essere ancora tutto. No, in realtà noi vogliamo che tu fai il tuo debutto nelle librerie con la fiaba, un'illustrazione, ovviamente con le tue illustrazioni e le prime canzoni che hai scritto quando eri piccina. Effettivamente. Dai, prenditi come manager, basta. Questa idea di Lisa è interessante, solo che ho prima tutta una serie di cose da sbrigare, perché oggi sono stata lì. Sì, non è che qui non siamo che qui a tirarci le dita. Ogni mattina, per esempio, mi tocca andare insieme a depositare un po' di roba. Stasera dovrò trascrivere tutti i testi, le cose. Anche comunque l'artista è anche uno scribacchino, ragazzi. Cioè, il palco, come dicevo l'altro giorno, parlavamo insieme a Pilar, che è una bravissima interprete italiana, insomma, e dicevamo: il palco è il premio. Cioè l'esibizione, dietro, quando tu il lavoro. Hai lavorato, quello è il premio quando tu arrivi sul palco e canti e tu luci il tuo fan, il tuo pubblico che ti ama e ti segue. Ma il resto, quello che occupa la maggior parte del tempo, sono le beghe, è la difficoltà, capito, le mail, parla con quello, parla con quello, difendi le tue idee, cioè i viaggi, la stanchezza, infatti io sono molto stanca adesso. Però il premio ci credo, direi ci credo. Che vale tutto il dispendio di energie. Sì, assolutamente, come del resto noi sappiamo bene, Elisa, no? Beh, dovete preparare una diretta, poi tanto sono quelle due ore che fate e ma il resto. Sì. No, non è così, diciamo che la diretta è il premio, no? Il questo premio. Vale anche per anzi no, il premio è quando fai qualche uscita, qualche diretta esterna e ti vengono a salutare, allora lì quando certo. L'ospite ti dice ma che bello, sono divertito. Quello è un premio molto molto molto importante. Le cicale, ne parliamo dopo di questo animale un po' dispendioso, perché la cicala ama l'estate, lo sapete, no? Canta, un po' viziata, canta, c'è la formica lavora ormai, non è. Gli amori sono passeggeri. Le cicale e non credo che sia male spendere così del tempo, non avere un impegno, io le invidio, se mi annoio io le invidio, quando piango non sanno mai tediarsi e non piangono mai, ci pensi? Io non sono più la me di ieri e tu non sei quel che eri, quel che è stato ormai non è. Gli amori sono passeggeri, io non sono più la me di ieri e tu non sei quel che eri, quel che è stato ormai non è. Gli amori sono passeggeri, io non sono più la me. Cicale che non sanno mai che fare, ogni elogio sono escluse, ma io le trovo favolose. Se mi piace il loro canto, no, non credo sia un tormento, canto anch'io le note al vento, è così che passo il tempo. Anch'io adoro le cicale perché amo l'estate, come lo Special Twice, mi piacciono i colori accesi. Poi e per il weekend cui, della luce. Le note al vento, come giustamente ricorda la nostra Roberta Giallo qua in diretta con noi, e la cicala improvvisamente viene rivalutata, non è affatto una seccatura. Esatto, intanto perché a me piace anche il loro canto. Anche a me. C'è chi invece dice, ah, queste cicale, ma al di là di quello, anche lì, vedi, tornano gli animali, tornano sempre gli animali. In questo caso un insetto, avevo bisogno secondo me di alleggerire un momento della vita piuttosto pesante e disperato, ovvero la fine di un amore, no? E allora, rispetto, secondo me, a volte a dei momenti tragici, si può reagire solo contrastando, non con la superficialità, però con la leggerezza. Quindi cercare di dare meno peso alle cose, perché se poi ci si fissa a volte, no? In eventi magari spiacevoli o semplicemente che hanno fatto il loro corso. Quella era una storia che semplicemente stava finendo. E a me dispiaceva, perché comunque a volte si soffre sia nell'arrecare dolore all'altro, oppure si piange proprio la fine di un amore. Però le cicale, allora, mi hanno dato questa idea, perché ho detto, loro sono il simbolo di ciò che è passeggero, dell'estate. E quindi ho associato appunto l'esempio, ho associato le cicale alla possibilità di vivere gli amori in modo più leggero, o di vivere la fine di un amore appunto in modo più leggero. Disincantato. Esatto. Certo, infatti, a proposito di tutto ciò, di quello che passa, di quella che è una cultura popolare che deve essere assolutamente viva e importante, abbiniamo troppo spesso l'idea di cultura popolare a qualcosa di immediato oppure di non curato, mentre invece, basta ricordare quello che era fino agli anni 70 con degli artisti che venivano così presentati al grande pubblico, ma di una qualità eccezionale. Secondo me sarebbe molto importante per la cultura in generale, per il teatro, per l'arte, rivalutare in maniera ricercata e raffinata e allo stesso tempo passare realtà fruibili. Questo è un po' un riassunto, permettimi, filosofico, col quale voglio far passare il messaggio e soprattutto le tue bellissime note che, abbinate alla voce, compongono un'orchestra, come quando tu prima, Elisa, parlavi, dicevi, no, ma tu fai da sola tutto un lavoro di arrangiamento così. Io penso che dal punto di vista strumentale ci sia anche una riduzione piacevole e non barocca, anzi qualcosa che piuttosto toglie, ma che dà importanza però alla tua voce, che chiaramente diventa uno strumento aggiunto. Sì, diciamo che poi mi è capitato nel tempo di collaborare con vari arrangiatori, vari musicisti, però la verità è che io al momento, quando mi sposto anche per i miei live, nella maggior parte dei casi sono piano voce. Quindi anche per rispettare la realtà personale, no, di quello che sono, sto andando sempre verso delle direzioni molto essenziali, perché uno deve essere anche specchio della realtà di se stesso. Quindi fare anche dei CD può essere bello da un punto di vista dell'ambizione, no, voglio fare il CD con l'orchestra, voglio, però secondo me deve essere anche a volte il CD lo specchio di quello che sei, dei tuoi mezzi, di quello che hai. E quindi è, come dire, una dichiarazione di onestà e di essenza, insomma, la propria musica. Quindi io sto cercando sempre di andare, hai detto bene tu, verso una riduzione, perché a volte se le cose hanno un valore non serve neanche vestirle troppo, oppure poi ci si arriva anche a vestirle ma condizionate da qualcosa che deve. Certo. Io per dire, ecco, questo lo dico qua, magari si avvererà. Io per dire, vorrei tanto scrivere un'opera, ad esempio, no? No, mi piacerebbe che il comune, ma quando mai, mi commissionasse con un bel budget un'opera. Ma lo fa Radio Città Fugico con tutti i soldi che... Ma adesso mi costituirò associazione, quindi visto mai che riesco a vincere qualche bando, perché mi piacerebbe vero far sì che l'arte non sia poi, ripeto, solo un qualcosa di personale. Comunque bisognerebbe tornare veramente a intendere l'arte anche come un processo che coinvolge più persone. E adesso che sto crescendo, perché insomma sono giovane, però non è che ho più 20 anni, per me il discorso partecipativo è importante. Quindi sì, mi piacerebbe un domani poter costruire un'opera teatrale avvalendomi poi della collaborazione, ma anche di gente comune, perché secondo me ognuno è un artista se individui il suo ruolo. Certo. Quindi mi piacerebbe, che ne so, prendere anche a caso, ma questo l'hanno fatto i grandi registi, prendere dalla strada qualcuno, individuare esattamente la cosa che calzava a perfezione a quella persona e quindi rendere artista una persona che di fatto non lo era. Quindi a me piacerebbe proprio costruire un'opera selezionando delle persone tra artisti e gente comune, insieme creare un laboratorio per... Vedremo. E con questo abbiamo parlato anche dei progetti futuri. Progetti, ne siamo futuri, ben è la domanda finale, è la del domanda nostro finale, ospite. Lei ha anticipato, visto che abbiamo anticipato noi sempre, sì, Roberta, sì, quest'oggi, e ci ho anticipato. Il disco lo vieni a presentare. Scusa, qui, Willy, quindi, cioè, vabbè, progetti futuri, secondo te si fermava uno? No, ma scusami, dai. No, ma lo vieni a presentare in radio, il dai, disco. Lo puoi quindi dire, dai. Progetti futuri. Allora, ho scoperto, presto, sappiate che uscirà un disco, credo che manchino ormai un paio di mesi, due, tre. quindi prometto di venire qua a presentarlo. Ottimo. E poi al di là di questo, vabbè, voi lo sapete, io faccio molti video, quindi sto già mettendo in cantiere dei video da realizzare con altri artisti, in cui costruiamo questi video, costruiamo i costumi, e insomma, ripeto, seguitemi sui miei social, tra Facebook, Instagram, YouTube, quello che volete, e troverete tutte le varie. E tutto cose. Tramite Roberta Giallo? Sì, sì, io sì, io ho il cerca controllo il di questa nave Yellow Submarine. Esatto, infatti il prossimo pezzo che ho in mente di, questo è un remake di The Yellow Submarine dei Beatles, sto per insomma metterlo in essere. E con la reincarnazione scopriremo che i Beatles l'hanno copiato da lei. Esatto. E questa è l'ultima innovazione che abbiamo dato allo Special Twice. Siamo in conclusione. Prometti, ahimè, che tu ritorni, insomma, che ci ritroviamo. Io, guarda, sono stata talmente bene che ritorno stravolentieri, anche perché si fanno due chiacchiere, si sta comodi, è caldo. Bene, ho anche mangiato la torta, poi te la diamo dopo, non ti preoccupare. Perfetto. E noi ci sentiamo venerdì prossimo con lo Special Twice, mentre invece tra pochissimo invece abbiamo il Jazz Live con Alfredo Pasquali, il Torrione e Jazz Crossroad, le vie del jazz che si intersecano per l'Emilia Romagna, e sono infinite. E noi stacchiamo subito, e già adesso diciamo buona luce e buon weekend. Buona luce, buon weekend, e noi ci vediamo venerdì prossimo 10:30 Special Twice. Roberta, ci vediamo. Grazie al Bravo Caffè. Grazie ogni a voi, bacioni a tutti. E invece con me tra poco, dopo la pubblicità. Ciao. Ciao.